poi ad essere oggetto delle sue ricerche successive e in particolare del secondo suo libro dedicato appunto alla politica agraria del nazionalsocialismo, un libro che il compianto Tim Mason nell'introduzione definiva appunto come il più equilibrato e esauriente tra gli studi oggi disponibili in tutte le lingue sulla politica agraria del nazismo. Oltre a questi due grossi lavori, in particolare Gustavo Corni ha pubblicato l'anno scorso, nell'89, un altro volumetto per i libri di base degli Editori Uniti, intitolato appunto Fascismo e fascismi. Quindi credo appunto che sul tema e sulle dimensioni appunto di massa del regime fascista ci siano pochi storici in Italia, storici con attenzione diciamo poi anche alla politologia, in grado di trattare in maniera esauriente questo tema. Ringrazio ancora Gustavo Corni, scuso il professor Schiera che non può essere presente perché è a Parigi invitato all'École des Hautes Études, e do la parola a Gustavo Corni. Ringrazio l'amico Blanco. Dopo questa presentazione, naturalmente qualsiasi cosa io direò e qualsiasi livello di relazione che terrò sarà sicuramente inadeguato rispetto a quanto è stato detto nel presentarmi, per cui mi giustifico in anticipo e mi giustifico soprattutto per il carattere di provvisorietà, o se vogliamo anche di rapsodicità, che il mio intervento inevitabilmente avrà, e spiegherò adesso perché inevitabilmente. Il tema intanto che mi è stato proposto di presentare in questa sede è coniugato al plurale, i fascismi, e già questo credo che sia una qualche cosa di abbastanza particolare, perché normalmente credo che nel nostro senso comune storiografico il termine sia di solito coniugato in singolare e si riferisca essenzialmente al fascismo italiano. Credo invece che valga la pena, credevo quando ho scritto questo libro che si intitola Fascismo e fascismi, e lo credo tuttora, che valga la pena di fare uno sforzo per allargare il nostro sguardo e per uscire dall'ambito specifico della storia italiana, cercando, almeno in linea generale, se non di definire i lineamenti di una categoria generale sovranazionale di fascismo, perlomeno di delineare alcuni dei problemi, alcune delle questioni che stanno a monte della determinazione di questa categoria generale sovranazionale di fascismo. E devo anche dire che questo progetto, insomma, questo proposito, ecco, più modestamente, questo proposito è reso più difficile da un duplice ordine di fattori. Da un lato, la storiografia sui singoli movimenti fascisti e anche su teorie generali del fascismo è sostanzialmente sterminata. E in più presenta il carattere di essere multilinguistica. Se vogliamo sapere qualche cosa su fenomeni di tipo fascista o parafascista o che in qualche modo potrebbe essere assimilabile al fascismo, non so, relativi per esempio ai paesi baltici dei quali in questi giorni si sta parlando per tutt'altre ragioni, ci scontreremmo, almeno io che non so né il lettone né l'estone né il lituano, ci scontreremmo con la scarsissima disponibilità di volumi di studi in lingue accessibili, inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, cose del genere. Per non parlare di, non so, del fascismo giapponese o della grossa questione relativa al tema se esista un fascismo giapponese, se si possa parlare di un fascismo giapponese nel periodo tra le due guerre, sulla quale, a parte alcuni studi in lingua americana, anglo-americana, esiste ovviamente una sterminata letteratura in giapponese che, almeno io personalmente, non sono assolutamente in grado di padroneggiare e nemmeno di avvicinare. Ma non solo questa letteratura è sterminata, da un lato. Dall'altro lato però bisogna anche dire che da almeno un decennio, o quasi, direi quasi un quindicennio a questa parte, non ci sono più studi di respiro comparativo. Non ci sono più ricerche, non ci sono più proposte di definire una categoria generale di fascismo, laddove negli anni 60 e soprattutto nei primi anni 70, in particolare da parte della storiografia e della politologia statunitense, si era fatto un notevole sforzo nella direzione di, come dire, di appunto definire, di inquadrare la definizione di un fascismo come categoria generale. Per cui ci troviamo da una parte di fronte ad uno sterminato mare di pubblicazioni monografiche più o meno specialistiche e di livelli e di caratteri completamente diversi l'une dalle altre, relative a singole realtà storiche, laddove naturalmente la vicenda del nazionalsocialismo in Germania fa la parte del più grossa, e dall'altro ci troviamo invece di fronte ad una notevole carenza di studi fondati scientificamente, nei quali si tenti una definizione di una categoria generale di fascismo. E devo anche dire la verità, io non sono per mio carattere uno che va poi tanto controcorrente di solito, però devo anche dire la verità che quando mi sono messo a scrivere, a lavorare su questo libro, e poi dopo mi sono accorto che contemporaneamente su un analogo tema, sullo stesso tema, stava lavorando niente di meno che Enzo Collotti, che naturalmente è uno studioso di nome molto più prestigioso del mio, e i nostri due volumi sono usciti praticamente in contemporanea e praticamente hanno il medesimo titolo, solo che il suo si chiama Fascismo, virgola, fascismi, e il mio si chiama Fascismo e fascismi, e il suo è uscito da Sansoni, il mio è uscito appunto dagli Editori Riuniti, nell'autunno dell'89 sono usciti questi due volumi. Si parva lì, naturalmente, perché mettermi sul medesimo piano di uno studioso dell'esperienza e della valentia di Enzo Collotti è logicamente del tutto insensato. È strano però, è strano che in Italia, solo in Italia praticamente, negli anni, tardi anni 80, ci si sia rimessi a riflettere su questa categoria generale di fascismo. E forse è del tutto sbagliato. Forse Enzo Collotti e io, e sarebbe più grave per Enzo Collotti data la sua fama, siamo completamente fuori tema, completamente fuori epoca e completamente fuori trend, come si dice oggi, no? Può darsi. Ciò nonostante, ritengo comunque opportuno proseguire su questa strada e cercare anche qui con voi, in tempi brevi, di indicare alcuni problemi generali, e mi scuso per la generalità o genericità della mia enunciazione. Bisogna dire prioritariamente che appunto dagli anni 20-30 in poi c'è stata una ricchissima produzione di teorie generali del fascismo, che ha le più svariate componenti. Al suo interno troviamo in realtà una notevole diversificazione, una notevole varietà, ma sostanzialmente le due teorie, le due impostazioni teoriche, che sono poi anche delle impostazioni in realtà ideologiche, che sono state un po' le dominanti, sono state l'impostazione marxista e l'impostazione in chiave di totalitarismo. L'impostazione di tipo marxista, che nasce contemporaneamente alla nascita del fascismo, e dal punto di vista politico il primo fascismo a nascere e comunque il primo fascismo ad imporsi sulla arena politica è stato il fascismo italiano, la impostazione marxista ha fin dall'inizio una fortissima connotazione politica, nel senso che i marxisti, ovvero politicamente i comunisti, erano esplicitamente e comunque inevitabilmente il primo obiettivo, i primi nemici dei fascisti, i primi nemici reciprocamente contro i quali i fascisti scatenavano la loro forza, la loro aggressività, e viceversa erano i comunisti a scatenare la loro aggressività e la loro forza nei confronti, politica perlomeno polemica se non concreta, nei confronti dei fascisti. Come anche credo sia noto, dopo un periodo degli anni 20 nel quale si è molto discusso all'interno del movimento comunista internazionale sulla definizione di fascismo, cosa era questo fascismo, negli anni 30, soprattutto dopo che il fascismo si è imposto in Germania e quindi dopo che la situazione era radicalmente cambiata, perché all'Unione Sovietica e a Stalin poteva essere relativamente indifferente che in Italia ci fosse un regime politico o l'altro, ma certamente non era indifferente Stalin e il gruppo dirigente sovietico che in Germania ci fosse un regime politico anziché un altro, come poi la guerra dimostrò con assoluta chiarezza. Negli anni 30, appunto, con l'avvento al potere del nazionalsocialismo in Germania, abbiamo un radicale cambiamento nell'impostazione marxista, si smette di discutere, i dibattiti, la flessibilità teorica, gli scontri anche molto duri che si svolgevano a livello teorico e a livello politico ogni volta che l'Internazionale Comunista riuniva i suoi consessi, ora qua, ora là, cessano e viene enunciata in modo naturalmente sanzionatorio, in modo icastico, una formula che è la nota formula di Dimitrov, non so come si pronunci, che suona all'incirca così, ma più o meno tutti la penso che l'abbiate più o meno sentita in qualche modo echeggiare. Il fascismo è lo strumento politico, è l'arma politica nelle mani delle componenti più aggressive, più sciovinististe e più imperialiste del capitalismo finanziario, grosso modo, la citazione naturalmente non è letterale. Da allora in poi, fino naturalmente ai primi anni 80, fino alla metà degli anni 80, nel mondo comunista, inteso come socialismo reale, come comunismo affermato, non si è più mosso granché rispetto a questa enunciazione, che presenta una caratteristica fondamentale, cioè quella di definire un preciso legame che non era di tipo che era di tipo funzionale, ma di tipo strettamente, organicamente funzionale, tra il movimento politico fascista e i suoi mandanti economico-sociali. C'era una sezione che Dimitrov precisava molto chiaramente in termini, molto chiaramente si fa per dire, ma intendeva chiaramente in termini di la parte più aggressiva, sciovinista, imperialista del capitalismo finanziario, che sono tutta una serie di precisazioni al concetto di capitalismo. Questa sarebbe stata il mandante del fascismo, e il fascismo non sarebbe stato altro che la espressione politica, l'arma, il braccio armato di questa componente del capitalismo. Questa enunciazione lega indissolubilmente questi due fattori, movimento fascista e poi regime, e capitalismo, sezioni specifiche del capitalismo, soggetti specificatamente definiti del capitalismo. E il suo grande limite, che non ovviamente non scopro io, ma che è stato messo in luce fin da allora e anche all'interno del movimento comunista, anche se in modo sommesso, perché negli anni 30 non era più possibile discutere apertamente, non era più possibile dissentire apertamente all'interno dell'Internazionale Comunista, se non rischiando la carriera o la vita. Il limite grosso di questa enunciazione è, primo, che non spiega, questo legame organico non spiega la genesi del fascismo, cioè perché il fascismo, perché il capitalismo finanziario ad un certo punto, in una determinata e specifica congiuntura, avrebbe deciso che gli strumenti della democrazia parlamentare o gli strumenti politici di cui disponeva fino a quel momento non erano più sufficienti alla realizzazione dei suoi interessi e avrebbe deciso che invece occorreva fare un salto di qualità, servirsi di un nuovo strumento politico, cioè del fascismo come movimento, ovvero del fascismo come regime. Perché questo sia successo non viene spiegato e non può essere spiegato in un'impostazione di questo tipo. In secondo luogo, questa interpretazione dimitroviana non spiega adeguatamente, non dà ragione, della evidente autonomia del regime o parziale autonomia del regime rispetto agli interessi del capitalismo finanziario, né, e questo è il punto che citava anche Blanco prima, questo tipo di interpretazione teorica riesce a rendere conto della questione del consenso. Se non cioè, come mai centinaia di migliaia e milioni di uomini aderirono al movimento fascista, al movimento nazionalsocialista, e poi come mai interi popoli o grosse parti, maggioranze di interi popoli, italiano, tedesco, aderirono al regime fascista? Quali erano le motivazioni di questo consenso? Era abbastanza evidente, lo era per esempio evidente anche a Togliatti, il quale queste cose in qualche misura ancora negli anni, nei tardi anni 20, primi anni 30, le scriveva o le diceva in foro interno, che non si poteva spiegare il consenso unicamente in termini di demagogia e di propaganda. Non era possibile e non è possibile spiegare la conquista e il mantenimento di un regime, nel caso dell'Italia, ventennale, solo in termini di pura e semplice manipolazione delle masse, in chiave propagandistica, servendosi di parole d'ordine demagogico-populistiche. E poi va naturalmente anche sottolineato che questo legame organico che la teoria marxista, e non poteva che farlo in base alle sue premesse teoriche, determina tra fascismo e capitalismo avanzato, è un legame che non riesce a, chiaramente, non riesce a spiegare perché il fascismo si sia imposto allo stesso modo in Italia e in Germania, due paesi economicamente molto diversi l'uno dall'altro, perché se la Germania negli anni 30 era indubbiamente da molto tempo una delle grandi potenze economiche mondiali, la seconda potenza economica mondiale dopo gli Stati Uniti, non si può certo dire che l'Italia nei primi anni 20 fosse un stato capitalistico avanzato, o meglio, la società italiana era lacerata, come tutti sappiamo, da contraddizioni, da contrasti, da profonde diversificazioni tra zone sviluppate dal punto di vista capitalistico e zone più arretrate dal punto di vista capitalistico. Naturalmente, alla stessa stregua, la teoria marxista non spiegava come mai il fascismo non si fosse imposto in primo luogo nel paese a capitalismo più avanzato, cioè negli Stati Uniti, che fra l'altro era il paese nel quale la crisi economica del 29 e seguenti aveva avuto le conseguenze più disastrose. Perché in base alla stessa logica dell'interpretazione di Dimitrov, la causa scatenante del fascismo sarebbe stata la crisi economica. Ma allora ci potremmo spiegare perché perché il fascismo non solo non sia andato al potere, ma nemmeno sia sorto praticamente alcun movimento fascista negli Stati Uniti, che erano il paese economicamente, capitalisticamente più avanzato e che era il paese che era stato colpito con maggiore durezza, come tutti sappiamo, dalla crisi economica del 29. Naturalmente sul filone di questa interpretazione marxista che io naturalmente sto presentando in termini estremamente rozzi, e insomma, e me ne scuso, ma il tempo naturalmente mi costringe a farlo, si sono innestati poi negli anni, nei decenni seguenti, tutta una serie di tentativi di interpretazione, in qualche modo che cercavano di superare i limiti, di superare le carenze gravi insite nella interpretazione di Dimitrov. Citerei soltanto due significativi filoni di rielaborazione, di revisione marxista, diciamo, dell'interpretazione di Dimitrov. Da un lato il filone del cosiddetto del bonapartismo, interpretazioni bonapartistiche che si rifanno allo studio di Karl Marx sulla presa del potere di Napoleone Bonaparte, Napoleone III, e in quel volumetto che si chiama Il 15 Brumaio di Napoleone Bonaparte, nel quale in termini naturalmente schematicissimi Marx interpreta l'ascesa di Napoleone Bonaparte in termini di situazione di stallo tra borghesia e proletariato, crearsi di un vuoto di potere, cioè di una situazione nella quale la borghesia non era più in grado di tenere il potere e il proletariato non era più in grado di assumerlo, e dentro a questo vuoto di potere capacità, possibilità per un leader che si serviva di un apparato demagogico, propagandistico e di una serie di richiami di tipo nazionalistico, patriottico, imperialistico, eccetera, di creare un vasto movimento di consenso nei propri confronti e di assumere il potere. Ne derivava, interpretato, applicato ai fascismi degli anni tra le due guerre, che il fascismo, inteso in questo senso bonapartisticamente, avrebbe avuto una sua qualche autonomia relativa, perché sarebbe stato frutto di una situazione di stallo tra borghesia e proletariato. Tuttavia rimaneva in piedi il legame organico tra fascismo e capitalismo. Tra gli altri, anche Antonio Gramsci viene normalmente citato tra gli autori di questo filone bonapartistico, che è stato poi largamente ripreso dal movimento studentesco, diciamo, dai teorici del movimento studentesco nei tardi anni 60, primi anni 70, soprattutto in Germania e in Francia. Ricordo per esempio i lavori di Nikos Poulantzas, uno storico francese di origine greca, un politologo francese di origine greca, e che forse qualcuno di voi saranno noti dagli studi universitari. E l'altro filone che vorrei ricordare è quello delle interpretazioni in chiave social-psicologica, cosiddette, insomma, nel senso di una serie di tentativi fatti da autori che in modo molto lato si rifacevano al marxismo, almeno come Wilhelm Reich da una parte o Herbert Marcuse e il gruppo di Francoforte dall'altra, la scuola di Francoforte dall'altra, i quali hanno tentato di interpretare il problema del consenso, cioè di spiegare il problema del consenso e di capire i meccanismi psicologici, però applicati al contesto sociale, della formazione del consenso per i movimenti fascisti e in vari modi. Adesso io non sto naturalmente non posso entrare nel dettaglio, ma vorrei solo sottolineare come queste interpretazioni basate sul concetto di fuga dalla libertà, Erich Fromm, o sul concetto di alienazione sessuale che provocava la formazione di una personalità sadomasochista, secondo Wilhelm Reich, che quindi avrebbe goduto di essere sottomessa a un forte movimento carismatico e nello stesso tempo avrebbe goduto di imporsi con violenza, con forza, con aggressività sugli altri. Ecco, questa serie di interpretazioni, come dire, ha una valenza universale, nel senso che poi sono studi che riguardano la società di massa e l'uomo di massa e che hanno fatto importanti, hanno consentito di ottenere importanti conoscenze della psiche umana e della psiche sociale, ma non sono in quanto tali applicabili esclusivamente al fascismo. La seconda grande interpretazione del fascismo, delle teorie generali del fascismo, è la cosiddetta interpretazione tipo totalitaristico, che cambia completamente ottica, che modifica completamente il quadro concettuale di riferimento e che è anch'essa, come quella marxista ma in chiave completamente diversa, fortemente connotata dal punto di vista politico. l'interpretazione di tipo totalitaristico prende le mosse, salvo alcuni prodromi, negli anni della Guerra Fredda, negli anni tardi anni 40, per tutti gli anni 50, ma sostanzialmente prosegue fino ad oggi. Un grande storico del nazionalsocialismo, noto anche in Italia per le sue numerose pubblicazioni, Karl Dietrich Bracher, La dittatura tedesca, pubblicata dal Mulino, penso che sia un testo che alcuni di voi hanno presente, è uno degli attuali, perché è vivente e operante, fautore di questa teoria, la quale, come noto, non si preoccupa più di determinare una categoria generale di fascismo, ma invece si preoccupa di determinare una categoria di totalitarismo e pone sul medesimo piano concettuale, categoriale, il nazionalsocialismo tedesco e il comunismo staliniano, lo stalinismo, e poi in alcune altre versioni il maoismo, ma insomma sostanzialmente i due grossi temi della questione sono lo stalinismo e il nazionalsocialismo. Questa interpretazione è un'interpretazione essenzialmente morfologica, cioè spiega le forme del potere, Hannah Arendt, le origini del totalitarismo, mi pare che si chiami così il libro, adesso non vorrei citare sbagliato, perché qualche volta ci si può sbagliare, e altri studi che invece magari non sono conosciuti tanto in Italia, però il libro di Hannah Arendt credo che sia un testo piuttosto conosciuto, si sono con grande profondità dedicate a definire le forme del potere totalitaristico e anche qui hanno fornito importanti contributi di conoscenza per le forme del potere politico nelle società di massa contemporanee, perché per certi aspetti possono essere applicati anche ad altri contesti, ma come dire, non ci troviamo più a che avere a che fare con una categoria generale di fascismo, la questione è diversa, l'oggetto è diverso e lo scopo è diverso. Queste teorie hanno chiaramente lo scopo di dimostrare, e dal punto di vista etico, che lo stalinismo, ovvero il comunismo, è negativo tanto quanto lo era stato il nazionalsocialismo, foriero di repressione, autoritarismo, oppressione o soppressione delle libertà, in ultima sintesi di guerra e di destabilizzazione. Dagli anni 60 a questa parte, come ho già detto all'inizio, non siamo più in grado, nessuno è stato più in grado di uscire sostanzialmente da questi due grandi filoni, anche se ci sono state molte altre interpretazioni, insomma, che qui non possiamo andare ad analizzare. Io vorrei soffermarmi su alcuni aspetti che credo di comparazione, che credo possano essere utili per, se vogliamo, per complicare la questione, non per semplificarla, perché credo che, anche se magari certe volte sarebbe più comodo avere delle cose semplici davanti, credo che in realtà in molti casi, e in questo caso in particolare, sia necessario rendere conto della complessità della questione. E per essere molto sintetico, ho fatto distribuire due tabelline che naturalmente hanno il valore che hanno, e adesso ovviamente le analizzeremo un po' più partitamente, che sono tratte, faccio pubblicità, tanto non prendo percentuali, dal mio libro, e che sono delle rielaborazioni di un saggio, appunto pubblicato nell'80 in un volume a cura di alcuni studiosi norvegesi e opera di uno studioso americano, Peter Merkel. Nella prima, almeno quella che riguarda la composizione sociale di alcuni partiti fascisti, fatta salva la precauzione metodologica assolutamente ovvia che comparare delle tabelle, delle cifre relative a figure professionali e sociali in contesti sociali così diversi è una operazione rischiosa, tanto più che le stesse statistiche nazionali naturalmente sono costruite in modo molto diverso, perché ogni nazione parte da una sua cultura statistica, da una sua impostazione statistica. Tuttavia, in qualche modo è possibile avere un quadro grossolano di quelle che sono le principali centri di gravità, di quelli che possono essere stati i principali centri di gravità dei movimenti fascisti nell'Europa tra le due guerre. E vedete subito che, a parte alcuni elementi che sono abbastanza costanti, per esempio una certa costanza nella forte percentuale di colletti bianchi, cioè di impiegati, white collars, no? Impiegati privati in questo caso, e una forte percentuale, stiamo parlando dei membri del movimento, cioè degli iscritti al partito, no? Della forte percentuale di imprenditori e artigiani, ma ovviamente dentro una categoria come imprenditori e artigiani c'è da Agnelli al calzolaio che ribatte i tacchi, insomma, ecco, quindi sono delle categorie terribilmente late, insomma. Ma anche, pur essendo così late, già al loro interno vediamo per esempio, non so, il caso spagnolo, che è un caso dove sembrerebbe non esserci praticamente presenza di imprenditori ed artigiani nella falange, mentre invece molto alte, molto alte sono le percentuali relative agli altri paesi. E ovviamente a fare queste percentuali molto alte sono soprattutto gli artigiani. Ma l'altro aspetto, oltre a queste continuità, credo che sia la profonda disomogeneità tra questi dati, che vanno presi, lo ripeto, come un'esercitazione puramente teorica e un avvicinamento estremamente cauto alla realtà storica. Perché ci troviamo di fronte a delle situazioni diversissime da un paese all'altro, da un movimento fascista all'altro. Ed è veramente difficile, dopo aver guardato questa tabella, continuare a credere, a ribadire la tesi molto diffusa, ma molto diffusa per esempio anche in Italia, che il fascismo sia essenzialmente un movimento dei ceti medi urbani. Quando ci troviamo, nel caso, non so, della Francia, un 57% di lavoratori specializzati, o nel caso della Olanda un 29% di lavoratori comuni non specializzati, o ci troviamo di fronte a percentuali così diverse, per esempio nella presenza di agricoltori o nella non presenza di agricoltori, eccetera, eccetera. Quindi la composizione sociale dei movimenti che in qualche modo potrebbero essere racchiusi all'interno di una categoria generale di fascismo è una composizione estremamente diversificata, e ce ne dà una piccola, rozza idea questa tabella. Però il fatto che questa tabella sia rozza, non lo dico a mio discapito, è la tabella più bella e più ricca e più articolata che io abbia mai trovato, l'unica che ci sia su questo, di questo tipo. Eppure potremmo passare delle ore ad analizzare i suoi limiti, insomma, voglio dire, le categorie, eppure è l'unica cosa della quale si dispone per confrontare un po' l'orizzonte sociale entro il quale si collocano i movimenti fascisti. E se passiamo ad un'altra tabella ancora più, se vogliamo, ancora più rozza e approssimata, anche perché il problema è ancora più difficilmente quantificabile, cioè l'altra tabella che io ho intitolato Condizione di partenza per il successo dei movimenti fascisti, nella quale, come dire, sulla base di una mia sensibilità e delle mie conoscenze, io ho dato una serie di crocette che indicano l'intensità di un certo problema, ma che sono ovviamente del tutto soggettive, perché che io abbia messo tre crocette o quattro crocette è dovuto alle letture che ho fatto, alle mie ignoranze e alle mie conoscenze, ma certamente non è un dato di tipo assoluto di quantificazione, ma in qualche modo ci dà alcune indicazioni. E anche qui, se noi andiamo a vedere per esempio il raffronto tra queste tre grandi categorie, impatto della crisi economica, quella che ho chiamato la minaccia rossa, minaccia comunista, e i conflitti etnici, che si potrebbero meglio definire come conflitti etnico-religiosi, per la verità, perché il più delle volte alla componente etnica si affianca la componente religiosa, per esempio tipico il caso rumeno o il caso jugoslavo, e fra questi conflitti etnici ho anche indicato non ho indicato l'antisemitismo, e li compariamo con l'ultima colonna, quella che ci dà la forza del partito fascista. Vedremo che l'intensità, la forte intensità di questi fattori ha una corrispondenza nella forte intensità del partito, cioè nella grande forza del partito fascista, soltanto nel caso tedesco, nel caso rumeno e nel caso austriaco, ma in tutti e tre questi casi, nel caso tedesco, nel caso rumeno e nel caso austriaco, una delle tre colonne dei tre fattori è zero. Cioè uno dei tre fattori è inesistente, ma si tratta sempre di fattori diversi. Nel caso tedesco e austriaco è inesistente il fattore conflitti etnici. Nel caso rumeno è inesistente il fattore minaccia comunista. Ma sono gli unici tre casi nei quali a una forte intensità di questi tre fattori corrisponde una grande forza del partito. Va poi naturalmente anche detto che solo nel caso tedesco questo partito andò al potere. Non andò al potere né in Romania né in Austria. Quindi anche questa tabella è scarsamente, come dire, forse se vogliamo è scarsamente chiara, esplicita, esplicativa, però una cosa, a mio parere, questa tabella spiega con una certa chiarezza, ed è questa la ragione per la quale l'ho inserita, che cioè essa spiega che il successo, le cause genetiche dell'avvento al potere o della forza di movimenti fascisti sono cause contestuali, sono legate a dei contesti che potremmo definire ecologici, cioè sono legati a dei contesti storicamente definiti e precisi, che sono difficilmente generalizzabili. E proviamo per esempio a definire alcuni di questi contesti, lasciando per il momento da parte, e vedo già che il mio tempo si sta, vabbè, insomma, poi quando vi stufate me lo dite, lasciando per il momento, per ultimo, i due casi più significativi, cioè quello dell'Italia e quello della Germania. Un primo contesto nel quale andare a esaminare concretamente la genesi di movimenti fascisti e il loro eventuale tasso di fascisticità è il contesto dei cosiddetti paesi successori dell'impero austro-ungarico, inteso in senso anche più lato, quella che viene chiamata l'Europa sudorientale. Orientale e sudorientale. Un contesto che è in primo luogo caratterizzato da un profondo sottosviluppo di tipo economico. In secondo luogo è caratterizzato da una elevata intensità dei conflitti interetnici e interreligiosi. Le notizie degli ultimi tempi ce ne sono una ulteriore prova, e in terzo luogo è caratterizzata dalla presenza di una borghesia intellettuale fortemente nazionalistica, per le ragioni dette, cioè per i conflitti interetnici che esistono, fortemente nazionalistica, e nello stesso tempo fortemente, anche se vagamente, anche se un po' rozzamente, orientata a un cambiamento dello status quo. I principali movimenti fascisti che noi possiamo individuare in questa area, le croci di ferro di Corneliu Codreanu in Romania, nome che è tornato tragicamente di nuovo alla ribalta, perché a nome di Codreanu c'è stata una delle tante rivendicazioni dell'attentato di Bologna, in cui sono stati dell'agguato in cui furono uccisi i tre carabinieri. Una delle rivendicazioni diceva: siamo le croci di ferro, legione Corneliu Codreanu. Ecco, questo è Corneliu Codreanu. Qualcuno, anzi nessuno l'ha spiegato chi era, ma molti non l'avranno saputo, forse tutti sanno chi è Corneliu Codreanu. Era il capo di questo movimento di estrema destra antisemita, fortemente impregnato di religiosità, quasi un movimento di tipo veramente quasi religioso. Uno storico americano l'ha chiamato un movimento di transizione dal movimento religioso al movimento politico, che negli anni 30 caratterizzò la vita politica rumena e che poi fu anche alla protagonista negli anni della Seconda Guerra Mondiale. In Ungheria c'è una miriade di movimenti, ma il movimento più significativo è quello delle croci frecciate di Ferenc Jalasi, e in Jugoslavia abbiamo invece il movimento degli Ustascia di Ante Pavelic, in Croazia ovviamente, nel senso che è un tipico movimento caratterizzato da un forte nazionalismo etnico e religioso, antiserbo, anti-musulmano e anti-ortodosso, cattolico croato. Però l'elemento che vorrei sottolineare è questo, che caratteristica comune di questi movimenti è la loro vaga, la loro imprecisa, rozza volontà di sovvertire lo status quo. Quindi sono movimenti in qualche modo di destabilizzazione di uno status quo che non era certamente uno status quo democratico, va detto, ma era lo status quo di monarchie costituzionali in cui c'erano delle vaghe forme di parlamentarismo, ma che erano caratterizzate in realtà da controllo oligopolistico di piccoli gruppi di politicanti che facevano capo alle varie corti. Nel caso dell'Ungheria non c'era una vera e propria corte, perché non esisteva un re, ma come è noto in Ungheria esisteva un reggente, l'ammiraglio Horthy, che faceva le funzioni del re d'Ungheria, perché re d'Ungheria ovviamente non ce n'erano più da secoli e gli ungheresi non volevano più gli Asburgo, ma la corona di Santo Stefano continuava ad essere il simbolo dell'unità nazionale magiare. Il secondo contesto ecologico nel quale credo si possa suddividere questa miriade magmatica di movimenti è il contesto della penisola iberica, dove abbiamo in comunanza con l'area sudorientale appena citata il dato del sottosviluppo economico e sociale, anche se soprattutto nel caso della Spagna ci troviamo in realtà in una società di transizione, in cui come nell'Italia del primissimo dopoguerra c'è un forte contrasto tra aree in via di sviluppo, la Catalogna, le aree basche, e aree invece ancora legate al feudalesimo rurale, soprattutto alle zone centrali del paese. È completamente assente il dato etnico, perché si tratta di due paesi, il Portogallo e la Spagna, etnicamente omogenei, ma in Spagna è molto forte la minaccia rossa, che è completamente inesistente in Portogallo. L'altro elemento comune di queste due situazioni è che si tratta di due monarchie secolari, antichissime, come tutti sappiamo Portogallo e Spagna sono due tra i primi stati moderni a formarsi nel 400, di due monarchie che da secoli si trovavano in una situazione di profonda crisi, avevano perduto il loro impero o se non lo avevano perduto di fatto non ne avevano più il controllo, il Portogallo era una specie di filiale dell'Inghilterra e serviva solo a rifornire la buona società londinese di Sherry e di Porto, e la Spagna poco più o poco meno, e i fascismi intervengono nel momento di transizione delicato e difficile dalla monarchia alla repubblica. Quindi siamo in una situazione politicamente, nella quale politicamente non c'è una stabilità istituzionale, ma c'è una monarchia ormai in crisi, che crolla nel 17 in Portogallo e dà vita ad una debolissima repubblica in cui il ritmo di crisi di governo è superiore al ritmo di crisi di governo della nostra Italia recente, perché nel giro di pochi anni ci sono, adesso l'ho scritto, ma una ventina o trentina di cambi di governo, una cosa assolutamente degna proprio della nostra penisola. E in Spagna invece, come noto, la Repubblica succede alla monarchia in una situazione di profonda crisi del paese e scoppia poi la guerra civile. Quindi in Spagna c'è la minaccia rossa, c'è questo forte scontro tra le destre. Il dato che qui vorrei sottolineare è che in entrambi questi paesi i movimenti fascisti sono o molto deboli o inesistenti, nel caso del Portogallo, molto deboli nel caso della Spagna, ma diventano i partiti unici dopo che si è imposto il regime. In Spagna la Falange, che era negli anni 30 un piccolo partito fondato da José Antonio Primo de Rivera, diventa il partito unico negli anni della guerra civile, perché Franco vuole così, lo nomina ex lege, fa ex lege della Falange il partito unico. In Portogallo Salazar, il dittatore, crea ex novo l'Unión Patriótica, un partito inesistente, e ne fa il partito dello Stato, ma questo a regime già consolidato. E la caratteristica, se vogliamo, il segno sociale di questi due, che sono due regimi a questo punto, no? Non sono più dei movimenti, ma sono due regimi, è un segno di conservazione e non di destabilizzazione, come nel caso dei movimenti dell'Europa sudorientale. Naturalmente l'evoluzione della Spagna e del Portogallo poi è, come dire, deve essere vista nel lungo periodo, perché, come noto, è solo negli anni 70 che i due regimi vengono meno. In Spagna per la morte naturale di Franco, a cui subentra una transizione sostanzialmente indolore alla monarchia di Juan Carlos, alla monarchia che in realtà è sostanzialmente una monarchia all'inglese. In Portogallo questa transizione avviene in modo un po' più doloroso attraverso la cosiddetta rivoluzione dei garofani, che a suo tempo accese la fantasia e gli entusiasmi anche dell'opinione pubblica italiana, almeno di chi ci credeva in queste cose, che fu portata avanti dagli ufficiali provenienti dalle frustranti guerre coloniali, in cui il Portogallo aveva vanamente tentato di contrastare la poderosa tendenza alla decolonizzazione. Il terzo contesto all'interno del quale si debbono collocare i movimenti di tipo, si possono collocare movimenti di tipo fascista, è il contesto che io chiamerei dell'Europa occidentale, in senso polato, delle democrazie europee, che va dai paesi scandinavi all'Inghilterra, alla Francia, al Belgio, all'Olanda, sostanzialmente, anche la Svizzera se vogliamo. In questo contesto i presupposti ecologici per il successo dei fascismi sono tutti assenti. c'è stabilità istituzionale, anche se c'è una diversa stabilità in Francia rispetto all'Inghilterra, per esempio, negli anni 30. La Francia del Fronte Popolare, la Francia dei contrasti tra destra e sinistra, non ha la medesima, come dire, stabilità istituzionale dell'Inghilterra, in cui i due partiti si alternano in maniera sostanzialmente indolore al potere, secondo le oscillazioni della politica inglese. Però c'è stabilità, c'è un relativamente basso impatto della crisi economica, perché la crisi economica colpisce in misura abbastanza modesta. I movimenti fascisti che nascono in questi paesi sono prevalentemente molto deboli e sono soprattutto, il più delle volte, fortemente modellati sugli esempi italiano e tedesco. Per esempio, nel caso della British Union of Fascists, del partito di Sir Oswald Mosley, che è il principale, il principale partito di tipo fascista che si ha nell'Inghilterra, nella Gran Bretagna degli anni 30, c'è una fortissima mutuazione dal modello italiano, mentre invece nel caso dei partiti fascisti in Belgio e in Olanda abbiamo una forte mutuazione dal modello tedesco, e lo stesso si può dire per i partiti fascisti in Scandinavia. Tutti questi partiti in Belgio, Olanda e Scandinavia hanno in comune con il modello tedesco soprattutto la questione razziale, cioè l'ideologia della superiorità di una razza germanica a cui intendevano in qualche modo afferire anche soprattutto i fiamminghi in Belgio e gli olandesi, più che i valloni naturalmente, i fiamminghi, che fa da collante di questi movimenti. Tuttavia si tratta di movimenti estremamente deboli. E si tratta di movimenti comunque che hanno anch'essi una forte componente di destabilizzazione del quadro politico e sociale. Politico va da sé, perché qualunque partito politico che si formi vuole prendere il potere, quindi vuole togliere il potere agli altri, ma sociale, cioè questi partiti che sono per lo più movimenti di opinione, per esempio in Francia, hanno la caratteristica essenzialmente di essere gruppi che raccolgono intellettuali, che esprimono punti di vista di intellettuali, di riviste intellettuali, di testate giornalistiche, più che movimenti diciamo di massa, sono movimenti di opinione, hanno la forte componente di una destabilizzazione che però non riesce in nessun modo a perforare la stabilità delle istituzioni democratiche. E veniamo infine ai due casi più significativi, che sono l'Italia e la Germania. Ci sono delle profonde diversità, io credo, delle profondissime diversità tra questi due movimenti, sia di tipo contestuale, sia di tipo inerente alla loro struttura e alla loro ideologia. Dal punto di vista del contesto, se è vero, in senso lato, che l'Italia del 22 e la Germania del 33 si trovavano entrambe in una situazione di profonda crisi economica, politica, istituzionale, di legittimazione, direi quasi dell'esistenza dello status quo, se questo è vero, tuttavia non dobbiamo dimenticare la profonda, radicale differenza tra i due paesi, che abbiamo già citato prima. L'Italia era un paese in qualche misura ancora semi-sottosviluppato, in cui lo sviluppo capitalistico era avanzato a macchia di leopardo e non aveva certamente coinvolto ancora l'intera società. Per usare termini politologici, il paese era in via di modernizzazione, non era ancora affatto pienamente modernizzato. Basta tornare indietro con la memoria, andare a parlare con i nostri genitori o con i nostri nonni di com'era il paese negli anni 20 e negli anni 30, per rendersi conto che era appunto in una situazione di modernizzazione. in atto. La Germania invece era un paese ampiamente industrializzato, pienamente modernizzato dal punto di vista in cui i politologi intendono questo termine, cioè di completamento dell'assetto politico, sociale, culturale dell'industrializzazione. Quindi c'è una profonda differenza nel grado di sviluppo tra i due paesi, c'è anche una profonda differenza legata a questo nella collocazione internazionale di questi due paesi, cioè l'Italia è da quando si è costituita in Stato unitario la prima delle potenze di serie B, anche se più volte ha fatto il tentativo, anche nel corso della Prima Guerra Mondiale, con 600.000 morti, pagando 600.000 morti, di diventare potenza di serie A. De Michelis e altri stanno riportando ancora ulteriormente questo tentativo negli anni più recenti di farci quinta, quarta, terza, seconda potenza economica mondiale, anche qui le statistiche vengono manipolate a piacimento. La Germania invece è una grande potenza collocata al centro del continente e collocata al centro della politica internazionale da quando si è costituita in Stato unitario, perlomeno. Parliamo del periodo unitario. Dal punto di vista della struttura interna di questi due movimenti, e anche qui naturalmente sto andando per rozzissime generalizzazioni, credo che sia corretto ritenere che il fascismo italiano abbia una componente ideologica più eversiva, più, tra virgolette, cioè oltre che eversiva dal punto di vista politico, ma più eversiva dal punto di vista sociale, cioè di mutamento dello status quo e di progresso. C'è sempre un po' di reticenza, anch'io ci ho girato un attimo intorno, ma poi l'ho detto, c'è sempre un po' di reticenza ad associare la parola progresso alla parola fascismo, però credo che invece si debbano dire le cose con il loro nome, spiegando bene di cosa si sta parlando. Cioè il fascismo tendeva a modernizzare il paese, tendeva a far progredire il paese dal punto di vista della politica estera, della politica di potenza, della politica militare, ma anche della politica economica, della politica sociale. E non è solo una questione di fare andare i treni in orario come si favoleggia andassero allora. In Germania il segno ideologico, poi queste cose naturalmente le possiamo discutere, se non siete d'accordo ne possiamo parlare, penso che di essere stato invitato qua anche per questo, per suscitare un po' di discussione, no? In Germania il segno ideologico fondamentale del nazionalsocialismo credo invece sia non solo il mantenimento dello status quo, ma direi anzi un guardare all'indietro. Cioè il mito ariano, il mito della razza, che in Italia è completamente assente, perché il mito della Roma antica ha tutt'altra funzione, più di tipo politico, politica di politica estera fortemente, anziché di politica interna, di politica sociale, economica, come nel caso del nazionalsocialismo tedesco. Il mito della razza ariana è un mito che guarda all'indietro. Queste cose, questa differenziazione, anche se io non sono mai stato d'accordo con lui, l'ha enunciata Renzo De Felice a metà degli anni 70 nella sua discussa intervista sul fascismo, suscitando strali e ire di tutti gli intellettuali di sinistra, di tutti gli storici di sinistra di allora, i quali naturalmente vedevano come fumo negli occhi, lo vedevo anch'io allora, come fumo negli occhi, che si dicesse che il fascismo poteva in qualche modo essere positivo, aver avuto qualche cosa di positivo, e si faceva questa netta distinzione tra fascismo e nazionalsocialismo. La ricerca però va avanti non solo alla luce di invettive, ma va avanti anche ideologica, ma va avanti anche e soprattutto, grazie a Dio, alla luce di ricerche, di studi, di documentazione che si accumula, e purtroppo si accumula in dimensioni sempre più incontrollabili, e credo che abbia dato fondamentalmente ragione a questa dualismo individuato da Renzo De Felice, tra un fascismo che guardava verso il futuro e un nazionalsocialismo che guardava verso il passato. Contemporaneamente però, e questo è l'ultimo concetto che voglio enunciare e poi mi fermo perché credo di avere anche tenuto troppo a lungo la vostra pazienza, contemporaneamente però l'effetto che questa ideologia ha avuto sulla concreta prassi del regime, dei rispettivi regimi, è stato l'opposto di ciò che questa ideologia auspicava, per una serie di ragioni legate appunto al contesto, e legate al contesto in cui il fascismo da una parte e il nazionalsocialismo dall'altra erano andati al potere. Ripeto delle cose molto note, ma il fascismo va al potere nel 22 ed è un piccolissimo partito di poche migliaia, decine di migliaia di fanatici e spaccateste che vengono usati dai latifondisti padani, dai latifondisti pugliesi, dagli industriali lombardi, dagli uomini politici di Roma, per fare un servizio, quello di spaccare le teste, di spezzare il movimento operaio, cattolico e socialista, operaio e contadino, cattolico e socialista, e di ripristinare la legalità, l'ordine dello Stato liberale. E va al potere a quelle precise condizioni, cioè di fungere da strumento di stabilizzazione, di mantenimento dello status quo. Da qui derivano le limitazioni formidabili che il regime deve subire fino alla sua caduta. Mussolini non è il dittatore, cioè è il dittatore, ma c'è un re. Non c'è una Costituzione né formale né informale, nonostante i tentativi, fascista. La Costituzione è lo Statuto Albertino. Il re il 20 luglio, il 25 di luglio del 43 chiama Mussolini, gli dice, lei è licenziato. Mussolini viene preso da due carabinieri e viene portato via. Il re l'ha fatto in quel momento perché aveva delle condizioni di un certo tipo per farlo in quel momento, ma teoricamente avrebbe potuto farlo in qualunque altro momento. Il condizionamento della Chiesa e delle classi dirigenti sono stati studiati molto poco, purtroppo, le regioni del Sud rispetto alle regioni del Nord nel periodo fascista, ma gli studi che abbiamo sulle regioni del Sud ci mostrano molto chiaramente che soprattutto nel Sud la classe dirigente era talmente vischiosa e talmente abile, dal suo punto di vista, gattopardesca, che riuscì abilmente, salvo qualche eccezione, a entrare nel regime, prendere i posti del potere, le leve del potere locale, del controllo delle società locali, delle comunità, eccetera, e fungere poi anche da transizione, questo lo sappiamo, sì, per il dopo, dopo il 43, dopo il 45, per l'Italia post-fascista, post-bellica, mantenendo probabilmente anche dopo il 45 quel medesimo ruolo di collante della società meridionale. Questo nel meridione, ma credo anche nel nord, questi elementi di vischiosità e di condizionamento da parte delle classi dirigenti pre-fasciste rispetto alle classi dirigenti fasciste è molto forte. Non nasce una nuova classe dirigente fascista, cioè nasce ma non si impone. A tirare i conti nel 43 e nel 45 la classe dirigente fascista, una nuova classe dirigente fascista, è ben poca cosa. La Chiesa, un altro fortissimo condizionamento, se vogliamo, al pieno esplicarsi della dittatura, perché la Chiesa continua a perseguire i suoi obiettivi, i suoi scopi di socializzazione, di presenza nel territorio, di controllo sociale, e lo fa nonostante tensioni, scontri, eccetera, e lo fa anche sanzionata dal concordato del 29, lo continua a fare fino alla fine del regime. In Germania, quando Hitler va al potere, e l'ultimo elemento, che Mussolini non riesce a creare una nuova classe dirigente fascista, anche perché è molto debole all'interno del fascismo, non solo all'interno del regime, ma anche all'interno del fascismo, e questo non solo nei primissimi anni, fino al diritto Matteotti, quando i farinacci, eccetera, eccetera, lo praticamente lo mettono apertamente in discussione, ma anche in seguito Mussolini è molto debole all'interno del partito, perché deve costruire contemporaneamente un movimento e un regime, perché nel 22 il suo movimento era veramente ancora lo stato nascente. In Germania la presa del potere si svolge 11 anni dopo, e si svolge quindi dopo che, visto che il nazionalsocialismo nasce nell'immediato dopoguerra, come il fascismo in Italia, dopo che per 13 anni, Hitler ha avuto il tempo per costruire una sua classe dirigente fascista, per costruire una sua egemonia all'interno del movimento nazionalsocialista, e quindi quando il partito nazionalsocialista va al potere, ci va in condizioni di maggiore forza rispetto ai suoi partners. Ci va, ben inteso, sempre all'interno di una coalizione, non solo perché il primo governo Hitler è un governo a maggioranza non nazionalsocialista, e dei non nazionalsocialisti rimarranno come ministri fino a guerra inoltrata. Pensiamo a Schacht, pensiamo al ministro delle finanze Schwerin von Krosigk, cioè le finanze e l'economia sono in mano a due nazionalsocialisti fino agli anni 30, 38, 39 inoltrati. Ma non solo per questo, ma è una coalizione di forze che porta al potere Hitler, così come in Italia, certamente. Certamente allo stesso modo che in Italia, però l'equilibrio delle forze dentro a questa coalizione è molto più sfavorevole a Mussolini rispetto a Hitler. E Hitler ha quindi, o meglio il nazionalsocialismo, per non voler personalizzare troppo, il nazionalsocialismo ha quindi una maggiore possibilità rispetto al fascismo italiano di realizzare i propri obiettivi ideologici, che sono quelli tragici che tutti conosciamo, cioè del trionfo della razza ariana attraverso la distruzione non solo dell'ebraismo europeo, ma anche attraverso la distruzione di tutto ciò che si frapponeva come ostacolo, o era ritenuto frapporsi come ostacolo, al raggiungimento di questo scopo, e la degradazione di tutti gli altri esseri umani al ruolo di puri e semplici strumenti di serie B o C, di Untermenschen, come puri strumenti al servizio della macchina da guerra nazionalsocialista, che doveva essere lo strumento con il quale realizzare l'obiettivo ideologico. Quindi in qualche modo una specie di contraddizione: il nazionalsocialismo si muove, cioè ha un'ideologia fortemente, che guarda fortemente al passato, l'esito della sua politica è distruttivo e anticipa l'Europa, costruisce l'Europa o il mondo di oggi. Poi con la fine del muro, veramente sì, siamo nella fine del nazionalsocialismo, insomma, hanno scritto più autorevoli commentatori, finisce il post-nazionalsocialismo. Mussolini e il fascismo, con una carica ideologica progressiva, modernizzatrice, salvo poi attuarla con repressioni, tribunali speciali, eccetera, eccetera, eccetera, tutte cose ovvie che non devo fare professione di antifascismo qua, credo. L'ideologia progressiva del fascismo non si attua, perché la società italiana è molto più vischiosa, nonostante un doppio, più che doppio periodo di tempo in cui il fascismo è al potere rispetto al nazionalsocialismo, è molto più vischiosa, e l'equilibrio delle forze all'interno delle quali si colloca il fascismo come movimento e come regime è particolarmente svantaggioso per il fascismo stesso. Ecco, e mi fermerei qui, nel senso che ho fornito una serie di scenari, spero abbastanza comprensibili, che credo, a mio avviso, giustifichino un uso di una categoria generale di fascismo, sì, però con una forte distinzione tra i diversi contesti sociali, i diversi contesti storici all'interno dei quali i singoli movimenti operano. Quindi non una definizione generale che, si collochi in un unico segno, sotto un unico segno, fascismo come strumento del capitalismo, oppure fascismo come totalitarismo, ma una definizione, se vogliamo, più flessibile, una definizione più articolata, che tenga presente una serie di comunanze e che tenga presente anche una serie di profonde distinzioni tra questi movimenti, che in parte, in piccola parte, sono diventati regimi e per fortuna invece in grande parte non lo sono diventati. E forse ho complicato le cose, non lo so, forse non, anziché chiarire, se qualcuno credeva che io avrei chiarito qualcosa, ho complicato ulteriormente le cose, ma credo francamente che il tema sia molto complicato di suo. Grazie. Prego, prego, prego. Dunque, una questione particolare, non sulla generalità, della relazione che lei ha svolto. A proposito dei differenti contesti in cui lei... Adesso senti meglio? Sì. Ok. A proposito dei differenti contesti in cui lei accennava, no? In cui si sviluppano i differenti fascismi, per così dire, il nazionalsocialismo tedesco e il fascismo, quindi la Germania e l'Italia, no? In cui il dato fondamentale dal punto di vista di quella che costituisce una differenza, direi, abbastanza importante, era la questione che la Germania, no, sarebbe stato un paese già industrializzato, quindi in qualche modo moderno, come lei diceva, mentre l'Italia era un paese avviato verso la via della modernizzazione, quindi non ancora. Accennava lei al fatto che c'era uno sviluppo industriale, ad esempio a macchie di leopardo, no? Anche se in realtà, più che a macchie di leopardo, direi che lo sviluppo industriale, nella misura in cui c'era, era al nord. C'era, no? Una quindi... macchia sola. Un leopardo con una macchia sola. Ecco, nella misura in cui si sostiene che il fascismo, in qualche modo, no, ha avuto anche un ruolo, modernizzatore per il paese. Ora, non so se ha avuto un ruolo modernizzatore, mi pare di aver capito, o se invece aveva una carica ideologica modernizzatrice, quindi questa non è stata effettuata. Sì. Questo non l'ho compreso bene. Ecco. Io mi sembra di aver capito che ha avuto una carica modernizzatrice, sì. No? Di fatto, poi. Ecco, mi pare che lei ha definito, anche se immagino che sia stata una definizione così generica, poi, no? La modernizzazione dal punto di vista politologico, cioè il dato fondamentale è lo sviluppo industriale, poi, no? Tutto quello che questo comporta a livello. Sì. Ecco, dire che il fascismo ha avuto un effetto modernizzatore anche per il paese, no? Significa riscontrare dal punto di vista di quelle che sono poi le ricerche concrete dal punto di vista storico, no? Quindi i dati eccetera, riscontrare una tendenza diversa o una situazione di fatto diversa rispetto all'epoca in cui il fascismo al potere, voglio dire, si è fatto una modernizzazione, un'industrializzazione del paese, considerato che ancora oggi il meridione d'Italia non è moderno per certi aspetti. Sì. Sì, ma infatti io parlavo di carica di modernizzazione, cioè parlavo di un potenziale di modernizzazione, per mantenere una metafora elettrica, di un potenziale di modernizzazione che poi ovviamente credo anche parzialmente si sia realizzato. Vorrei anche sottolineare che nonostante la molle sterminata della storiografia di cui parlavo all'inizio, abbiamo purtroppo pochissimi studi. Adesso abbiamo i primi studi, veramente che si formano sulle trasformazioni delle varie classi sociali durante il fascismo, perché fino ad ora ci si è mossi molto per generalizzazioni, per schematizzazioni, e solo da qualche anno a questa parte sono iniziati degli studi, che so io, sulle professioni libere, so, sui medici, sulle professioni, su determinate contesti sociali e professionali, per vedere in che misura sono cambiati, si sono modernizzati. Ma fino a pochissimo avevamo veramente soltanto dei dati molto generici, però queste prime ricerche stanno dimostrando che ci sono tutta una serie di ambiti della società italiana che nel corso degli anni 30, 20-30, subiscono degli effetti di modernizzazione. Ora naturalmente va anche, ci si dovrebbe anche chiedere in che misura questi effetti di modernizzazione siano dovuti unicamente o prevalentemente alla pressione del regime, oppure non siano dovuti anche a dei fenomeni di tipo internazionale, cioè l'economia italiana, benché parzialmente sottosviluppata, era inserita in un contesto internazionale, in un mercato internazionale, e quindi subiva delle influenze dall'esterno. Pensiamo alla quota 90 che determina un cambiamento profondo nella politica economica del paese, passando sostanzialmente dal liberismo al protezionismo, è una risposta a una situazione di tipo internazionale, cioè di rapporti di cambio tra il dollaro, la sterlina e la lira. Quindi questi fattori, che noi certe volte leggendoli sul giornale o al telegiornale non capiamo, insomma, bene, ma chi se ne importa, invece questi fattori di tipo finanziario, valutario, eccetera, influivano molto. Adesso bisognerebbe vedere in che misura queste trasformazioni sono un portato generale delle trasformazioni dell'Europa, oppure siano il portato di una politica precisa del regime. Non so se ho... Dunque, io confesso che mi ero preparato una domanda alla quale lei ha in parte risposto, però io ci vorrei tornare su e insistere, no? Se appunto esiste una categoria generale di fascismo, lo storico tedesco che citava lei prima, Karl Dietrich Bracker, in Germania, e Renzo De Felice in Italia ne hanno più volte negato l'esistenza in questi ultimi anni, sottolineando per converso le specificità nazionali del fascismo. Ora, Enzo Collotti, nel libro Fascismo, virgola, fascismi appunto, aveva sostenuto che questa categoria generale esiste, con argomenti abbastanza persuasivi. In che punto la sua definizione generale di fascismo collima con quella di Collotti, visto che lei l'ha citato? E poi è una questione che sollevo qui. Prima è stato citato il povero Tim Mason, no? Come prefatore di una sua opera. Io penso che lei abbia letto quel saggio apparso su Movimento Operaio Socialista, intitolato Modernità, Modernizzazione, nel quale Tim Mason insomma, dava le bacchettate sulle mani, con molto garbo, come era suo solito, agli storici italiani che usano con troppa allegria il concetto di modernizzazione. Io credo che il suo bersaglio fosse tra l'altro Renzo De Felice, che più ha insistito su questa questione a proposito del fascismo. Ecco, lei che cosa ne pensa? Sì, beh, io per quello che riguarda la prima domanda, devo dire la verità, non ho una mia teoria generale del fascismo, confesso questo mio limite, perché più in realtà più ci lavoro sopra, più emergono delle profonde una molteplicità di variabili. Credo però che Collotti sia ancora un po' nella sua pur pregevole e interessante opera, che se lei ha occasione di confrontarla, provi a confrontarla, è molto simile alla si parva licet, naturalmente, è ben inteso, è molto simile a questo mio volumetto, a parte il titolo, proprio è molto simile, però ha delle profonde differenze, per esempio perché io parlo di certi paesi, lui non parla di certi paesi, cioè voglio dire, anche non c'è un libro, non ci sono due libri che, trattando il tema fascismi, parlino dei medesimi paesi, oppure parlino dei medesimi movimenti all'interno dei medesimi paesi, cioè uno parla del Belgio, quell'altro no, uno parla della Polonia, allora quell'altro non parla della Polonia, però parla della Finlandia. Collotti si sofferma su 4 o 5 fenomeni, ma anche lui li raggruppa, e qui sono molto d'accordo con lui, dal punto di vista, diciamo, ecologico, no? Cioè fa i fascismi, i regimi autoritari, i fascismi dell'est europeo, è abbastanza... Credo però che sia ancora un po' economicista la posizione di Collotti. D'altra parte, sì, ha la sua formazione culturale, che è nota, è quella che è, insomma. Cioè, io credo che tenga troppo poco conto di fattori, per esempio dei fattori religiosi, che per esempio sono molto importanti. Questo laboratorio straordinario che è l'Europa orientale, nel periodo tra le due guerre, ma anche oggi, noi lo conosciamo troppo poco, credo, anche per ragioni linguistiche, insomma, perché, ma anche per ragioni di tradizione culturale. È un laboratorio straordinario, e lì ci sono degli elementi, come per esempio l'elemento religioso, che sono poi degli elementi che il marxismo ha sempre voluto mettere in secondo piano, e che vediamo invece come la storia ogni volta ci riporti in primo piano. L'islamismo è uno degli esempi più significativi, ma anche in Europa, insomma, oggi la Jugoslavia è lacerata dai medesimi contrasti etnico-religiosi e sociali, perché c'erano dei gap tra Croazia e Serbia allora, come ci sono dei gap economici tra Croazia e Serbia oggi, o Slovenia e Serbia oggi, dai medesimi contrasti dai quali era lacerata negli anni 30. E la Romania e la Bulgaria e l'Ungheria si trovano in situazioni abbastanza simili oggi rispetto agli anni 30. Quindi io non ho veramente una teoria generale da proporre, però credo che si debba tenere presente una molteplicità di fattori. Ecco, quello che io ho voluto fare forse è stato quello di portare l'attenzione sulla molteplicità dei fattori, più così come avvertenza di tipo metodologico. Per quello che riguarda Tim Mason, certamente la posizione di Tim Mason era giustissima, secondo me, di critica di questo trionfalismo, perché adesso veramente il fascismo è diventato il contrario di quello che... Siccome non si può più essere antifascisti, per carità, non si può più essere comunisti, per carità, non parlare più della resistenza, eccetera, eccetera. Allora, capovolgiamo tutto, e allora c'è questo clima di trionfalismo, no? Di esaltazione trionfalistica, che ha trovato la sua esaltazione massima nella biografia di Mussolini. E Tim Mason attaccava anche, fece un bellissimo articolo alcuni anni fa, su quella grande mostra all'Eur sull'economia fascista, eccetera. E laddove, appunto, sembra adesso, in base a questa visione così, che il paese... sia avanzato di 100 anni in 20 anni e che si sia modernizzato grazie al fascismo, laddove certi elementi di modernizzazione probabilmente ci sono anche stati, per esempio nell'agricoltura, che è il campo che conosco meglio, alcuni elementi ci sono stati, ma dove non bisogna però mai dimenticare in che contesto questo si colloca. Cioè, se c'è anche stata una modernizzazione, è passata attraverso repressione, eliminazione delle libertà costituzionali e civili, attraverso un conculcamento delle coscienze, una politica culturale appiattita, eccetera, eccetera, eccetera, tutte le componenti che fanno parte della dittatura, per quanto imperfetta e per quanto bonacciona, che poi tanto bonacciona non era perché da noi non si dice mai che cosa hanno fatto gli italiani in Libia, in Etiopia, in Croazia. Noi non siamo razzisti, per carità, lo stiamo diventando adesso tragicamente, ma non lo eravamo fino a qualche anno fa. E invece, voglio dire, queste cose sono state veramente censurate. Allora Tim Mason giustamente dà la storiografia. E siccome De Felice impera, soprattutto nei mass media, la TV è praticamente, non in mano sua personalmente, ma Ferrara, eccetera, eccetera, sono tutte sue suoi fans, c'è una si è imposta una visione complessiva del fascismo tutta edulcorata, anzi tutta positiva. E Tim Mason giustamente faceva le bucce dal punto di vista delle categorie storiche a questa visione edulcorata. Però vorrei anche dire che la mia posizione credo che sia stata chiara, cioè non è quella di sottolineare il fascismo come la modernizzazione come insita nella realizzazione del fascismo, quanto piuttosto di sottolineare certe pulsioni ideologiche, ma di mettere in luce anche le non realizzazioni di questo regime, cioè una modernizzazione che si è molto molto parzialmente realizzata, anzi pochissimo, a causa dei forti condizionamenti politici, economici e sociali che il fascismo ha subito proprio per il tipo, la genesi che esso ha avuto, la genesi del regime fascista che lo ha reso fin dall'inizio debole e quindi ne ha obnubilato, ne ha ottuso il potenziale di modernizzazione. Non so se ho risposto abbastanza, ma non credo. Non so se c'è ancora qualcun altro. Vi ho preso per stanchezza. Sconfitti alla lunga distanza. No, io sono qua, se ci sono delle domande, degli interventi, sono ben lieto, nei limiti del possibile, di rispondere. Altrimenti ci sciogliamo qui e ci rivediamo, credo, il 7 di febbraio. Grazie a tutti.